questa donna che riflette il cielo e che fa azzurro un mare umano in colore. Questa donna che è un prestigiatore degli infiniti conigli. Lucciola stupita del giorno, lei che illumina la notte. Questa donna ha sognato l'amore ed è nato l'universo.